L'iniziativa di questa sera è un'iniziativa che abbiamo voluto prendere nell'ambito di una presenza di questi rappresentanti cubani in Italia per cercare di sollevare la solidarietà necessaria oggi a Cuba. Cuba oggi è stretto da un embargo americano sempre più pesante, le difficoltà che sta attraversando il governo cubano sono molte, penso, abbastanza difficile parlare di anche. Il bisogno di sollevare questa solidarietà è grande. Abbiamo pensato di partire innanzitutto, cioè di ritrovare i motivi di questa solidarietà e l'importanza che l'esperienza cubana ha avuto per i popoli dell'America Latina, l'ha avuta e che ha ancora per i popoli dell'America Latina. Quindi non semplicemente un discorso sulla situazione, sulle difficoltà che ha il popolo cubano, ma sull'importanza che questa esperienza continua comunque ad avere, l'importanza che ha per il futuro, direi, di tutti i popoli, non soltanto dei popoli dell'America Latina, per questa esperienza. Cuba ha bisogno adesso di rompere l'isolamento in cui tentano di cacciarla gli americani, in cui è stata cacciata a livello internazionale, ha bisogno di rompere questo isolamento anche attraverso il ritrovare nei popoli amici il significato, la forza della sua esistenza, di cosa ancora significa l'esperienza cubana. Io direi che adesso diamo la parola subito, senza perdere ulteriormente tempo, a primo di nome Andri, che ci farà una breve introduzione, e poi a Carlos, che parlerà anche lui ancora della situazione cubana. Poi apriremo un dibattito, domande, confronto, tutto quello che avete da dire, e cercheremo di rispondere. Carlos parlerà in spagnolo, lentamente, quindi probabilmente comprensibile. Abbiamo Maria che sta da interprete, qualora ci siano difficoltà di comprensione o nelle domande che fate voi, o nelle cose di che racconterà lui, interverrà per aiutare questa comprensione. Però parola a Eugenio. Ma io cercherò di essere estremamente schematico, tentando di rispondere ad una domanda. E nella risposta che tenterò di dare a questa domanda, cercherò di leggere l'esperienza cubana all'interno della situazione latinoamericana. La domanda che mi pongo è questa: perché dopo che è caduto il muro di Berlino, dopo che il comunismo non rappresenta più un pericolo a livello internazionale, perché tanto accanimento contro Cuba? Perché vedete, al limite fino a ieri, nel momento in cui esisteva un equilibrio bipolare del mondo, esisteva una guerra o fredda o calda o tiepida tra le due superpotenze, la presenza di Cuba nel panorama dell'America poteva apparire pericolosa per il fatto molto semplice che poteva essere la base di lancio dei missili, poteva essere tutte queste cose qui, eccetera. E in un contesto di guerra fredda, di confrontazione molto, molto forte tra le due superpotenze, poteva apparire giustificato, diciamo così, un accanimento nei confronti di Cuba. Vedete, oggi lo scenario internazionale è totalmente cambiato, non esiste più, tra virgolette, il pericolo comunista, eppure nei confronti di Cuba si sta attuando un embargo che potrei definire ancora più forte e ancora più stretto di quello precedente. Basta ricordare la legge 12 negli Stati Uniti, che è di pochi mesi fa. E allora, se questo è vero, io comincio a rispondere dicendo che paradossalmente la presenza di Cuba è più pericolosa oggi nel contesto dell'America Latina di ieri. Perché si manifesta come, questa è la mia interpretazione, come la presenza di un qualche cosa di estraneo, di un un qualche cosa di alieno all'interno di un mondo dove si preferisce che tutto sia fondamentalmente pianificato e tutto sia fondamentalmente uguale. Vedete, in America Latina in questi anni sono cambiate tante cose. L'America Latina non è più quella che era 5, 6, 10 anni fa, cioè l'America Latina delle dittature cosiddette, eccetera. Si dice che l'America Latina in questi anni si è, tra virgolette, democratizzata. È il periodo delle democrazie in America Latina. Qualcuno ha definito però queste democrazie dell'America Latina non col termine democrazia, ma piuttosto col termine democratura, a significare una sorta di mescolamento tra queste due parole, democrazia e dittatura. Perché fondamentalmente quello che è avvenuto, il passaggio che si è attuato in America Latina in questi anni, non è stato un passaggio da forme dittatoriali a forme di contenuto democratico, se non che è stato il passaggio a forme della democrazia senza molto spesso il contenuto della democrazia. Non si è passato alla democrazia come governo del popolo, vabbè che anche in Italia questo, però questo è l'altro discorso, stiamo parlando dell'America Latina, non mi fate fare parentesi, come governo del popolo, e non si è, e invece se non come democrazia, come il rispetto di alcune regole formali della democrazia che prevedono le elezioni eccetera, e che in qualche caso possono essere anche non rispettate, si vede in Perù, in nome della forza maggiore, ritorna in altri modi la dottrina della sicurezza nazionale. Provate a guardare per esempio la democrazia brasiliana, provate a guardare l'esperienza che in questi anni si è stata fatta in Brasile, fino all'ultimo fatto che il presidente se n'è dovuto andare, vabbè, anche qui dovrei fare dei paragoni che non posso fare, eccetera. Provate a pensare alla democrazia argentina, dove la cosa di fondo che è avvenuta è questa: si è passati dal dominio, diciamo così, militare e politico del grande padrone del nord dell'America, degli Stati Uniti, ad un altro dominio, che è il dominio indotto sempre dall'Occidente, dalle grandi potenze occidentali, indotto e mediato attraverso la Banca del Mondiale e il Fondo Monetario Internazionale. Perché quello che è avvenuto, quello, il grande equivoco, voluto a mio avviso, che oggi si sta vivendo, è quello di confondere la democrazia col sistema di mercato. E la cosa che si chiede è questo, si chiede non tanto la democrazia formale come esperienza di governo del popolo, eccetera, quanto piuttosto la preparazione di strutture atte a fare in modo che i paesi dell'America Latina entrino nel grande mercato mondiale. E allora quello che sta avvenendo in questi paesi è di fatto l'intervento massiccio della Banca Mondiale e l'intervento che deve portare attraverso i meccanismi dell'aggiustamento strutturale a fare in modo che questi paesi entrino, si dice, nel contesto di mercato internazionale. E questa è la democrazia. Allora voi vedete che ci sono dei paesi dell'America Latina, così come avviene in altri paesi del cosiddetto sud del mondo, che stanno letteralmente morendo di democrazia. Nel senso che attraverso i meccanismi economici e finanziari della Banca Mondiale le classi più povere vengono impoverite ulteriormente. E allora noi abbiamo questo tipo di contesto, abbiamo un contesto internazionale in cui ormai, dicevo prima, La democrazia è diventata la stessa cosa di economia di mercato, e dove tutto è visto in funzione di questo. Nel frattempo in America Latina, io non voglio parlare a lungo, però è importante, tento di rispondere a questa domanda, che facevo all'inizio, dicendo perché tanto accanimento contro Cuba, e a questa risposta che davo, che era perché Cuba è più pericolosa oggi di ieri. E nel frattempo sono intervenuti altri fatti. Dicevo, è intervenuta la caduta dei regimi dell'Est e il fatto che il sistema di mercato, il sistema capitalistico, l'economia di mercato è diventata legge dominante del mondo. È intervenuto in America Latina un altro fattore che io voglio mettere in evidenza, che chiamerei l'affievolimento della presenza liberante della Chiesa. Della presenza liberante non tanto delle forme religiose, del popolo, eccetera, quest'anno, ma della Chiesa istituzione, perché di fatto noi abbiamo assistito in questi anni ad una restaurazione molto forte a livello di Chiesa latinoamericana. Sono morti o ce ne sono andati i grandi vescovi che hanno preso le parti del popolo in America Latina. È stata teorizzata e viene teorizzata una scelta religiosa della Chiesa latinoamericana che non deve fare politica e quindi che non deve entrare nel merito dei problemi, sapendo molto bene che in certi luoghi di frontiera non fare politica è fare politica. E in questo contesto, a livello internazionale, è partita una grande campagna, si dice, per la democrazia. In Europa, la comunità europea, da un po' di tempo a questa parte, non fa più nessun accordo di cooperazione con i paesi dell'America Latina se dentro non viene accettata la cosiddetta clausola democratica. Da un certo punto di vista è molto importante questo, se la democrazia fosse davvero il governo del popolo. Ma ancora una volta la clausola democratica si manifesta come liberalizzazione dell'economia di mercato. Questa è la clausola che viene posta. E allora vedete, oggi Cuba in America Latina rappresenta un elemento estraneo, un elemento alieno. Rappresenta la dimostrazione, il segno, perché è poi piccola, non può che essere a livello di segno, che è possibile un'economia altra, prima ancora che la società altra, un'economia altra, che sono possibili modi di sviluppo, modelli di sviluppo che non siano quelli della Banca Mondiale e del Fondo Monetario Internazionale. Che non sia l'accettazione sic et simpliciter del dogma della concorrenza come nuova religione da vivere a livello planetario. Che non sia il fatto che siamo, che tutti assolutamente per essere democratici devono vivere queste forme di economia. Cioè diventa la dimostrazione che è possibile quello che altrimenti viene detto impossibile. Non so se riesco a spiegare. Oggi cos'è che ci si dice sempre? Ci si dice che nel mondo sarà brutto, ci avrà dei problemi questo sistema qui, però è l'unico possibile, è l'unico che funziona. E quindi dobbiamo tapparci il naso se non ci va bene, se siamo poveracci dobbiamo gridare alla mala sorte, se siamo ricchi e se siamo affluenti possiamo dire c'è andata bene questa volta, però questo è l'unico sistema funzionante. Cuba è la manifestazione che non è vero niente che questo possa essere l'unico sistema funzionante. Quindi oggi il problema Cuba non è più un problema di, diciamo così, di schieramenti come poteva essere ieri. non è più neanche un problema di ideologia o di visione del mondo globale, è un problema molto concreto, ma che va al cuore, nel centro stesso di quella che è, la cultura dominante, di quello che è il pensiero politico economico dominante. E entrando nel cuore stesso, perché è proprio presente all'interno, nel luogo dove questo sistema ha il suo centro, puntando al cuore diventa pericoloso. Perché se fosse il problema, e non voglio entrare nel merito di queste cose, di Cuba vi parleranno coloro che sono qui al tavolo con me, ma se fosse il problema dei diritti umani, della democrazia, di tutte quelle robe lì, eccetera, che si dice, signori miei, ci sono 1500 altri posti dove questi problemi esistono in maniera molto più forte. Il problema è altro, è diverso. Il problema è quello che vi dicevo. Il problema è culturale fondamentalmente, ma di una cultura che si fa storia, che si fa vita, che si fa popolo, che si fa cammino, che si fa politica, che si fa Stato, che si fa modalità di vivere, che si fa soprattutto economia. E quindi diventa qualcosa da stroncare nelle sue radici. Diventa qualcosa da stroncare nelle sue radici. Cioè diventa qualcosa che non va che non si può assolutamente, diciamo così, solo neutralizzare un po', va tolto nelle sue radici, perché il pericolo sta nelle radici, non negli epifenomeni. Oddio che parola difficile, non in quello che emerge davanti, in quello che salta fuori. Chiudo dicendo che in questo contesto anche la solidarietà a Cuba diventa difficile, perché guardate, al limite non è più solidarietà di schieramento, non è più solidarietà di qualcuno che preferisce un sistema che non c'è più a livello politico di potenza eccetera ad un altro sistema, è solidarietà che diventa grido nei confronti di una pianificazione, di una massificazione del mondo. Diventa solidarietà che mette in crisi tutti i dogmi che vengono continuamente presentati. Diventa solidarietà che di fatto domanda un rovesciamento del modo di pensare di essi. Al di là, ripeto, di quelli che possono essere discorsi di carattere ideologico, nel senso, ma nella concretezza, nei fatti. E allora, a me pare che, cioè questa è un'ipotesi di lavoro che pongo, è un'ipotesi di lavoro della quale sono certo, abbastanza certo io personalmente, per cui oggi la solidarietà a Cuba, vissuta anche nei confronti degli altri paesi dell'America Latina, diventa un luogo da cui partire, non per copiare dei modelli, guai copiare. Io ricordo sempre che in Nicaragua, ai tempi del sandinismo, si diceva il Nicaragua non è Cuba e domani si libererà il Guatemala, non potrà essere il Nicaragua. Dobbiamo sempre andare oltre, dobbiamo sempre andare, non per copiare dei modelli, ma per assumere una dinamica e per assumere una metodologia. Ed è in questo contesto che io vorrei anche invitarvi, perché immagino che la gente che sia qui, per la maggioranza, sia gente che sente e vive la solidarietà nei confronti del popolo cubano, vorrei anche invitarvi a riflettere e a rivedere la solidarietà a partire da questo, perché in questo modo diventa una solidarietà, diciamo così, molto trasgressiva, quasi insurrezionale, e diventa il modo di riprendere in mano i fili di un qualcosa che si sta rompendo e che diventa molto difficile ricucire, e infine del tentativo di costruire un sistema altro, che sia un sistema più giusto, dove in un mondo dove chi ha fatto dell'ingiustizia, chi ha fatto dell'ingiustizia il punto di partenza da cui costruire la convivenza. Ho chiuso. Carlos adesso. C'era sempre ostilità quando tra i paesi. guerra diretta ormai, gli Stati Uniti non hanno mai creato la guerra a Cuba, ma abbiamo fatto una cultura completa di pochi. E la mia epoca, los años 60, recuerdo, existía, como creo que existe ahora, una organización regional que se llama Organización de Estados Americanos, OEA. Esta organización la integraba Estados Unidos y el resto de los países del continente americano. Esos países, con la sola excepción de México, fueron obligados, presionados a cerrar todas las relaciones con Cuba. Esto significaba que Cuba, desde ese momento en adelante, no podía comerciar con ningún país de América, que Cuba no podía comerciar con ninguna empresa o compañía o transnacional, aunque estuviera radicada en Europa, si esta compañía tenía relaciones con los Estados Unidos, si era subordinada a alguna compañía norteamericana. Allora, in conseguenza, Cuba si è visto costretta a perdere qualsiasi potere economico con ditte che c'erano in America o anche fossero in Europa, ma che dipendevano di una multinazionale americana. Allora, questo è tutto il governo. Esto significó también en el terreno político que todos esos países que fueron obligados por Estados Unidos a romper relaciones con Cuba retiraron sus embajadas, retiraron su personal diplomático de Cuba y le pidieron a sus ciudadanos que no podían ni siquiera viajar a Cuba. Prima di la rivoluzione cubana avevano interessi economici con Cuba e che in questo momento erano o gli Stati Uniti o l'Europa, sono stati anche costretti a chiudere le ambasciate, i consolati, tutto il personale diplomatico è stato costretto a andare fuori da Cuba. E allora hanno perso qualsiasi comunicazione economica o anche hanno è stato vietato ai cittadini di quei paesi per viaggiare a Cuba. Después, Cuba, come ustedes conocen, fue ayudada y entró en relaciones muy estrechas económicamente y políticamente con los países que integraban el campo socialista. Países del este de Europa e incluso China. En este momento Cuba ha dovuto per tutta la situazione è dovuto avere rapporti, relazioni con tutti i paesi dell'est, anche Russia e Cina. La storia posteriore della rivoluzione Cuba, de su desarrollo, de sus problemas, de sus relaciones internacionales. Ustedes la conocen. Pero surge el cambio de sistema económico y político en los países del este de Europa, y sobreviene otra etapa. ¿Qué es lo que sucede a partir de esa segunda mitad de los años 80? Un país que llevaba 30 años construyendo una industria, una agricultura, sobre la base de una tecnología importada de la Unión Soviética, de la llamada Alemania Democrática, de Checoslovaquia y otros países. En el año 70, Cuba, da 30 años, no se hizo una industria, una agricultura, una tecnología que era por siempre importada de Rusia, que es el país que era con la actividad en su soporte. Un país que intercambiaba sus productos, el azúcar, los cítricos, la naranja, la toronja, el níquel, sus productos minerales y agrícolas con esos países para recibir petróleo, para recibir harina y piezas para la industria. Cuba faceva soprattutto con questi paesi intercambio di quei prodotti che arrivano a Cuba, cioè minerali, nickel, aranci, per petrolio, soprattutto petrolio e anche farina per noi. Ya mucho antes de comenzar a anunciarse la perestroika en la Unión Soviética, Fidel Castro había hablado al pueblo cubano sobre una propuesta de rectificación de una serie de errores cometidos por la dirección del partido del gobierno cubano con respecto a la economía fundamentalmente y a la supeditación demasiado grande a estos países del este, antes de anunciarse la perestroika. Prima de la perestroika, ya Castro había propuesto una rectificare in qualche politica economica del partito cubano, nel senso di non essere troppo dipendenti dei paesi dell'est. E non solamente una rectificazione con rispetto alle relazioni internazionali, economiche, eccetera, con questi paesi, sino anche una rectificazione dei procedimenti interni che quizás y que se ha visto hoy nos estaba afectando económicamente y socialmente. No soltanto questa rectifica, yo creo que debe ser económica o industrial. Castro diceva que si debía anche rectificare la procedura interna dei partiti, che quella che stava in qualche modo costituendo. Parejamente a la caída del muro de Berlín, la caída del socialismo en los países del este, en Estados Unidos Acción Republicana comienza a, como se dice, la Junta Nacional, apretar a Cuba, apretar el bloqueo, arreciar la situación de estrechez económica y de llegada a la isla de abastecimiento de todo tipo. Prima della caduta del muro berlino, gli Stati Uniti, tutta l'amministrazione repubblicana in quel momento degli Stati Uniti, costringeva fortemente, pressionava il bloqueo per evitare che arrivassero a Cuba e provvigioni di necessità. Y un senador afiliado al Partido Demócrata, que no me parece nada demócrata, se llama Torricelli, propone ya en los inicios de la victoria del Partido Demócrata en las últimas elecciones de los Estados Unidos, una ley, estando todavía Bush en el poder, una ley que se va a llamar ley Torricelli, y que ellos llaman ley de la democratización de Cuba. En Estados Unidos la llaman así. Es una ley que pide que el bloqueo cierre más su tenaza sobre Cuba, que se impida la llegada de alimentos a Cuba, ya no solo de productos químicos, de productos para la industria, de productos que ayuden a la producción, sino también de aquellas materias primas básicas que sirven para fabricar medicamentos, para, digamos, hacer leche para los niños, la leche en polvo, todo, que se cierre todo con Cuba para destruir ese gobierno comunista único que queda en el continente americano. Cuando en l'epoca del periodo de Bush, un senatore Torricelli ha proposto e si è approvato una legge che si chiama de democratizzazione. Questa legge proponeva un fortissimo bloqueo e anche vietava l'arrivo di non solo di alimenti e tutti qualsiasi cosa che potrebbe essere necessaria a Cuba, ma anche di materie prime per fabbricare un qualsiasi medicamento, per esempio le latte in polvere, i vaccini, tutti questi che erano detti prima. Esta ley fue aprobada por el Senado y por la Cámara de Representantes norteamericana y así la recibió el actual presidente de los Estados Unidos, Bill Clinton. ¿Qué ha significado para nosotros en momentos críticos en que ya no recibimos la ayuda que recibíamos por los países del este? Ya no comerciamos con los países del este, tampoco los países del este reciben nuestros productos. Clinton ha evitado questa legge e allora loro si chiedono cosa succede adesso in Cuba, che non è vietato qualsiasi prodotto di prima necessità del mondo occidentale e neanche ricevono nessun prodotto di questi paesi della Russia. Sopravviene, come è naturale, un colapso in nostra economia, adattata su fabbrica a tecnologie soviéticas, polacas, checoslovacas, etc., alemanas, democráticas, etc. adattare queste fabbriche a quello che bisogna Giappone, per esempio, l'Europa, come si fa, come si cambia questo? Come è possibile vendere la zucchero cubano nel mercato mondiale a un prezzo rigoroso? Cuando no hay precios decorosos, porque el mercado mundial, los precios de ese mercado, lo domina Estados Unidos y siempre mantiene el azúcar a un precio muy bajo, y nosotros compramos el petróleo siempre a precios más altos. ¿Cómo es posible? Un prezzo molto più basso di quello che può fare in questo momento Cuba. Come è possibile vendere nostro nickel, che è una gran produzione, nickel sucio, si chiama in termini di relazioni economiche, nickel sucio, perché? Perché non è puro. Viene ligato con cobalto, que es un mineral mucho más caro que el níquel. ¿Cómo puedo fare? Cuba ha una grandissima produzione di níquel bruto, níquel bruto che è mescolato con il cobalto. ¿Cómo puedo fare per vendere questo níquel a un prezzo di mercato e adattarlo a la tecnologia che si permette di fare? Nosotros vendemos nuestro níquel, si pudiéramos venderlo, como níquel sucio, y el país que lo adquiera compra a un precio muy barato el níquel, lo separa del cobalto, adquiere níquel de muy buena calidad, lo procesa y además vende el cobalto. Allora, il paese che lo compra a un prezzo bassissimo, dopo separa il nickel del cobalto e vende il nickel e anche il cobalto prezzo. Ese è solo un esempio. También nosotros hacemos y tenemos desarrollo en la biotecnología. La invención de vacunas para la hepatitis B, para la fiebre meningocócica, la búsqueda incesante de soluciones para eliminar el AIDS o SIDA, y todos esos medicamentos tienen un valor. ¿Dónde los vendemos? ¿Quién compra? Cuba ha una alta biotecnologia in questo momento, ha scoperto medicamenti per i vaccini, per l'epatitis, per l'AIDS, e può vendere tutti questi prodotti, ma chi compra questi prodotti? Alcuni paesi comprano, alcune compagnie comprano, violando la ley de origen, buscándose problemas con Estados Unidos. Canadá ha comprado nuestro níquel del año 1998. Se buscó problemas con Estados Unidos. Estados Unidos le dijo a Canadá que no le compraba trigo. Y Canadá logró vender el trigo en Europa. Pero si no hubiera logrado vender el trigo en Europa, entonces Canadá no podía vender su trigo y por tanto nos hubiera dicho a nosotros, no te compramos el níquel. ¿Cuántos países violan la ley de origen y compran los productos de Cuba? Por ejemplo, Canadá ha comprado níquel a Cuba. Estados Unidos, ma gli Stati Uniti allora non ha comprato grano a Canada. meno male che Europa sia come dovrebbe Canada. Se Europa non compra grano, allora Canada è costretta a non comprare il grano. He puesto solo ejemplos, no voy a hablar de toda la economía cubana porque necesitaríamos mucho tiempo. Puedo decir que son servicios de salud sofisticados, porque he estado en Estados Unidos y he estado en Europa, y no son tan buenos los servicios de salud gratuitos. Los que son muy buenos son los de millonarios, y los de los ciudadanos cubanos se parecen a los de los millonarios. Cuba da educación completamente gratuita. Fino è obbligatoria fino al decimo grado e anche è gratuita completamente la sanità, ma la sanità con servizi altamente sofisticati. In America la sanità è gratuita, Stati Uniti, è gratuita ma soltanto la sanità basilare, quello sofisticato corrisponde a in America. La che è gratuita, o sea, la poquita que es gratuita, es muy mala. Y la que se parece a la nuestra de los a subire il gas natural para la cocina de la mujer cubana. Anche manca il gas per cucinare, per il riscaldamento, per tutto. Ya había dicho que la mujer cubana, ya le dije, ven que de los hombres, porque yo soy un buen cocinero. Tengo que cocinar casi todos los días cuando hago un día. Bien, para no cansarme mucho de esta exposición inicial. Falta el pan, la leche, la carne, los huevos, el pollo. Hace tiempo que no lo vemos. Pollo se fue. Ahí. Manca, en este momento manca pan, la leche, la carne, el uova, el pollo es lo que tenemos. Ante esta situación hay una gran alegría en la reacción en la ultraderecha, en la comunidad cubana que vive en Miami, en el exilio, y una gran bagaje de propaganda contra Cuba, con muchas invenciones, con mucha ficción sobre lo que está pasando allá. Sabemos que en el mundo entero la información sobre Cuba es muy tergiversada. Adesso in Miami, dove si trova quasi tutta la ultraderecha cubana, tutta la destra cubana, c'è una grande euforia per la situazione che si trova in questo momento e attualmente la propaganda contro Cuba in tutto il mondo loro sanno che è molto tergiversata. In realtà, che hacen los cubanos? Come opinan? Come viven? ¿Cómo aguantan la necesidad, la escasez de productos? Caminar 8 o 10 kilómetros para ir al trabajo y llegar temprano. ¿Cómo hacen? En realidad, ¿cómo están los cubanos? Per vivere, per mangiare, per andare al lavoro e arrivare puntualmente quando non c'è petrolio, non ci sono macchine, non ci sono servizi, a volte devono fare 10 km al piede. Come è possibile che un pueblo in esa condizione, e già llevamos 2 o 3 anni in esa condizione, pueda hace un par di mesi en un 80, un 85% votar a favor de la revolución, a favor del partido, a favor de Fidel? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que los cubanos, dopo 2 o 3 años de esta situación de ogni volta es più difficile, dopo questa presente elezione possano anche votare il 90% per il votantes un 99%, a favor 80-85%. Votante 5% a favor de Castro y votante 95%. ¿Cómo puedo votar a favor cuando la situación es así? Quiero decir entonces que parece ser que los Estados Unidos, nuestro principal enemigo, el capitalismo internacional, nuestro principal enemigo, y la reacción en general, parece ser que están equivocados. Que Castro no se va a ir mañana, ni que nadie lo va a dejar de culo. Ahora sembra que los enemigos, los grandes enemigos, Estados Unidos, toda la stampa internacional, toda la... sembra che sono sbagliati, che Castro tempo non va, va via in poco tempo e che i cubani non vogliono mandare via me. Hai tre cose molto lunghe, ma che voglio terminare, che hanno ocurrido in questi ultimi 3-4 anni. Primero, desde la época de la ratificación, o sea, a 7 u 8 años, un inicio orientado por Fidel Castro de renovación de los cuadros del gobierno, del Estado y del partido. Por supuesto, sin ningún tipo de purga, già quando la ratificazione che è stata fatta 7-8 anni fa, dopo ha proposto una renovazione del governo e dello Stato, ma evidentemente senza nessuna purga stalinista. E oggi ci incontriamo in Cuba con un consiglio di ministri cuyo promedio de edad está en los 45 años. En este momento Cuba ha un gobierno, con la cuya edad media es hasta 40-45 años. Ministros que también están entre los cuadros principales del partido. Ministros que en algunas ocasiones cuando fueron nombrados ministros, algunos vieron cuadros del partido y preguntaban, ¿y este quién es? ¿De dónde viene? Y estos ministros, cuando son estados nominados, cualquier cuadro anciano del partido diceva, ¿más cuesto quién? Ese joven ministro era maestro y ahora es ministro de Educación. Ese joven ministro de Industria Básica era ingeniero en MOA, en una región agreste de la provincia de Oriente, y ahora es ministro de Industria Básica. MOA, donde está el ministro. Y así nos hemos encontrado con ministros que el ministro de la Salud Pública era un médico eminente, un hombre de 50 años solamente, y ahora el ministro de la Salud Pública. Aquí el ministro de la Sanidad Pública es un eminente médico de 50 años. Y el de la Industria Básica tiene 45. Y por la Industria Básica hay contando 45 años. Y el de Relaciones Exteriores tiene 37. Ese es un factor, el de los cuatro jóvenes que la dirección de la revolución previsoramente vaya entregando esos factores de poder estatal, partidista, para que enfrenten cualquier nueva situación. Al mismo tiempo en el pueblo que se produce un proceso de reconocimiento de sus valores, de sus posibilidades y de su creatividad, tanto productiva como cultural, para afrontar los problemas desde Cuba con lo que tengamos en Cuba, con lo poco que tengamos, y no recibir ayuda interesada de nadie. Económica, sa che deve reagire con quello che c'è in Cuba senza ricevere aiuta, forse proposte di tratta di qualcuno. Hay que hablar con los compañeros de la fábrica cubana, obreros, jefe de producción, ingenieros, con los compañeros de los servicios en Cuba, con los compañeros de industria básica y de la agricultura, para conocer cómo se expresan, en el sentido de que en este momento peor, en este momento de crisis, es cuando más han aprendido a trabajar y cuando han reconocido que tienen sus propias fuerzas para crear, si tienen la posibilidad de tener el mínimo de recursos para trabajar. Está en un momento difícil, cuando quello che lavorano nelle fabbriche, i capi, hanno riconosciuto le proprie cose e hanno visto come si può affrontare, hanno imparato più adesso con la crisi che prima. E nel terreno della cultura, dove los escritores non tienen papel para ser editados, sus libros, sus novelas, sus poemas, sus ensayos, donde los teatristas carecen de la iluminación adecuada para una representación teatral, los bailarines, donde los músicos a veces no tienen electricidad para poder tener el sonido, amplificación de sonido para hacer sus representaciones, y como todos, artistas, escritores, están buscando soluciones de ir a trabajar a las plazas, a los barrios, a los centros obreros, al aire libre, a veces de día, a veces con luz de faroles, a veces con luz de automóviles, para que la cultura no pare, porque también es una lucha cultural contra el imperialismo. Nel mondo della cultura hanno visto che creare questo ambiente culturale è un punto di lotta contro il terrorismo. Per esempio, come non c'è carta in Cuba, non si possono evitare libri, non si possono evitare niente. Il teatro non c'è elettricità, i musici non possono suonare e il teatro non c'è elettricità per fare gli spettacoli. Ma questi artisti fanno nelle piazze, nei quartieri, nelle fabbriche, fanno gli spettacoli tutti i giorni o a volte di sera con le luci delle macchine, che così una volta. E questa terza cosa importante che finalmente voglio dire è come si è manifestato anche la solidarietà internazionale con il nostro popolo. Italia ha tenuto solidaridad con Cuba, con compañeros de Italia, compañeros de México, de España, del Canadá, compañeros de Argentina, de Brasil, compañeros de Centroamérica, compañeros incluso que viven y trabajan en los Estados Unidos, han manifestado su solidaridad con Cuba de muchas maneras. No estamos solo hablando aquí de la ayuda material, que es importante. A veces ayudan con dinero, a veces envían medicinas, a veces envían piezas de repuesto para una fábrica determinada, a veces envían equipos médicos para un determinado hospital. Cuba riconosce la solidarietà che viene dato in tanti paesi, Italia, Messico, Spagna, Canada, Argentina, Brasile, e non soltanto la solidarietà morale che è una spinta, no? Anche e soprattutto l'aiuto materiale. No tanto a la solidaridad, no me refiero solo a la solidaridad material, sino a la solidaridad moral. expresado en esto que decían de envío de medicamentos, envío de leche en polvo, envío de vitaminas, envío de antibióticos, envío de hilo para coser, para operaciones quirúrgicas. L'aiuto morale che hanno versato in paese, ma che si deve riconoscere l'aiuto materiale, anche per esempio stilo per fare operazioni di chirurgia. E molte cose más. Questo è un riconoscimento che queremos hacer a los pueblos que nos han ayudado. Tengo una anécdota para finalizar. Hace como 3 meses vimos en la televisión cubana a un compañero hindú de la India, con su turbante vestido de blanco, que venía a entregar 2 barcos de harina para Cuba. Los barcos de harina significaban quizás 2 semanas o 3 semanas de pan, según el racionamiento, para todo el país. Era una gota de agua en un océano. Pero lo más lindo, lo más importante, era que los cubanos, que nunca habíamos visto un hindú, solo en películas, en filmes, teníamos a un hindú allí entregando, a nombre del pueblo de la India, harina para Cuba. Eso es lo que me servizi anche per piacere la giornata prima. E Venezuela pure l'Argentina. Ah, anche con Giappone. Poi se questo sarebbe proprio dei rapporti commerciali, che purtroppo non è che noi possiamo averne tanti, perché non è che abbiamo tante risorse per poter pagare tutte le cose che acquistiamo attraverso questi rapporti. E abbiamo intrapreso una cosa che abbiamo denominato il plan alimentare, e cioè cercare di produrre la maggior quantità possibile di ortaggi, del cibo comunque che si può trarre dalla terra da noi, con lo sforzo di tutti noi, perché cioè, un conto è essere innanzitutto ai contadini e un altro è che tutto il popolo partecipa a questa produzione, no? Cioè, anche gli intellettuali, i medici, tutti quanti ci andiamo a lavorare in campagna per produrre queste cose, che poi ce le mangiamo anche tutti, no? Mi sembra giusto. Poi abbiamo puntato tanto, penso sia uno dei primi gruppi nella... Thank you. sembra il nostro. E lui dice che Francia è la Germania, io credo che sarebbe sempre questo caso. C'è lo zucchero e il tabacco che si vende sempre comunque e anche gli agrumi. Queste sono le risorse di cui contiamo e che ormai adesso sono tutte versate sul commercio estero. Cioè, noi praticamente non le consumiamo, proprio per averne, per riuscire a portare più valuta a Cuba, per intraprendere nuovi rapporti. Questo più o meno è così. Nicaragua hanno rifiutato questo Cuba. Hay una gran solidaridad con Cuba, hay una gran esperanza de que Cuba sobreviva, porque ellos vieron en algún momento que Cuba es su faro, su camino, aunque no tengan que copiar el modelo, como decía el compañero Eugenio. Modo parte della sfera, i rapporti con i paesi capitalisti comunque saranno rapporti molto più rapporti forti, senso quali sono le risorse materiali per Cuba affinché possa effettivamente, una volta appunto sotto l'embargo, costruire un'economia indipendente che non sia basata comunque solo sull'agroesportazione, che è stato uno degli aspetti con cui in qualche modo